Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi sarete con me, lunedì poi, già ve lo preannuncio, tornerà Sebastiano Barisoni e quindi essendo con me la puntata, la classifica del venerdì, che è il classico appuntamento del venerdì, non ci sarà, mi dispiace per voi. Mi sarebbe piaciuto, a dir la verità, però è un piacere che riservo volentieri a Sebastiano, parlarvi, che ne so, dei 140 milioni di euro buttati nel casinò di Saint Vincent dalla regione Valle d'Aosta negli ultimi 10 anni, nel tentativo di salvare questo casinò fallito, un tentativo fallito, ne abbiamo parlato lunedì in effetto giorno, oppure parlare di questa vicenda degli assenteisti di Piacenza. 50 indagati per assenteismo, i famosi truffatori del cartellino, chiamiamoli così, non appunto furbetti del cartellino, ma truffatori del cartellino, di cui uno addirittura prendeva il furgone del comune e andava a prostitute col furgone del comune. Ma insomma, riservo volentieri tutto questo per Sebastiano e per quando ritornerà con la sua classifica, ammesso che torni su questi temi, ma ogni settimana ce ne sono di nuovi, quindi è probabile che anche questi ne escano in favore di altri e forse anche più, aperte virgolette, divertenti. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Di che cosa parleremo oggi? Allora, innanzitutto il DDL concorrenza. Finalmente c'è stato questo passaggio alla Camera, in questo palleggio eterno sul DDL concorrenza tra Camera e Senato, quindi è là che ritornerà al Senato, nonostante gli auspici espressi dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, tra l'altro proprio qua è intervenuto a questi microfoni, era ospite di Oscar Giannino ed Alessandro Milan, quindi ritorna al Senato con una serie di piccole modifiche, un ordine del giorno, e ne abbiamo parlato appunto tra l'altro anche oggi, che è più, diciamo, se volete, più meno sostanziale, che nel quale si immagina che quando i VIP si fanno i selfie e li mettono su Instagram debbano mettere la dicitura abbastanza chiara nel caso ci sia della pubblicità di un particolare prodotto, e cose un po' più sostanziali. Innanzitutto il tema del tacito rinnovo delle assicurazioni. Ora, il tacito rinnovo dell'assicurazione ogni anno non è più previsto per l'RC auto, per le assicurazioni auto, così facciamo un po' di chiarezza, e non lo è più previsto da un po' di tempo. Che cosa si prevedeva nella prima formulazione del DDL concorrenza? Si prevedeva che per tutte le altre assicurazioni non valesse il tacito rinnovo, cioè ogni volta uno dovesse decidere se rinnovare o no quell'assicurazione, se era soddisfatto oppure no. Ebbene, in questa seconda formulazione del DDL concorrenza le cose sono cambiate e quindi resta il tacito rinnovo per tutte le altre assicurazioni che non sono le assicurazioni auto. Parleremo di questo e parleremo anche, per esempio, della norma su Flixbus, che è questa compagnia tedesca che offre viaggi in pullman low cost, la norma su Flixbus, che di fatto creava problemi all'attività di Flixbus, è stata finalmente bloccata, e speriamo che al Senato non cambi di nuovo, perché sennò tocca di nuovo tornare alla Camera dopo 800 e passa giorni che questo DDL concorrenza è in gioco e in ballo. Ci sono anche molti altri elementi e molte critiche si sono appuntate su questo DDL concorrenza proprio per una serie di concessioni. Ad esempio, il fatto, per quanto riguarda le SRL semplificate, servirà l'intervento del notaio, perché non è passata la possibilità di farlo solo mediante scrittura privata. Non ci sarà nessuna modifica per le società di ingegneri e avvocati. Le prime restano fuori dal controllo dell'ordine, le seconde continuano a dover avere fra i soci per almeno 2/3 del capitale sociale avvocati iscritti all'albo. Quindi, come vedete, quelle che potevano sembrare le cose un po' più innovative, un po' più di apertura del mercato, non sono passate. Diciamo che siamo riusciti, per esempio, come si diceva, a salvare Flixbus, e tra poco ne parleremo. Ci occuperemo di Russia, perché oggi la Russia ha dato il via libera alle controsanzioni nei confronti dell'Unione Europea fino al 2018, a due giorni dalla decisione del Consiglio Europeo che ha deciso di prorogare le sanzioni contro la Russia. Come sapete, questo è un problema che riguarda strettamente l'industria italiana, perché ci crea un bel po' di problemi, e parleremo anche di questa ipotesi che sta circolando in queste ore di un taglio abbastanza netto del cuneo fiscale, ossia delle tasse sul lavoro per i giovani, per far sì che più giovani vengano assunti. È una delle ipotesi alle quali sta pensando il governo: un cuneo fiscale ridotto per 300.000 giovani, dal 2018 contributi al 15% per i neo assunti, con un costo iniziale di 900 milioni di euro. Ne parleremo e cercheremo di capire dove il governo vuole tirar fuori questi soldi. E poi parleremo anche di innovazione. Si apre nella giornata di oggi un appuntamento che vede protagonista anche il nostro gruppo editoriale insieme a Digital Magics, che parla di appunto Open Innovation. Che cos'è l'Open Innovation? È molto semplicemente un modello relativamente nuovo, non troppo in realtà, perché l'idea è stata formulata più di 10 anni fa. È un'idea secondo la quale l'innovazione non deve più rimanere chiusa all'interno delle aziende, ma deve aprirsi per esempio alle start-up, alle università e via dicendo, perché ormai la sostanza è questa: i prodotti durano troppo poco, i costi di ricerca e sviluppo che si caricano sulle aziende sono a questo punto eccessivi rispetto a quella che è la vita del prodotto, e quindi serve cercare delle risorse all'esterno per sviluppare prodotti e servizi nuovi. Parleremo naturalmente di mercati che stanno peggiorando in questi ultimi minuti: meno 0,44% per il FTSE MIB, meno 0,42% per il FTSE All-Share, con Francoforte che cede lo 0,4%, Parigi lo 0,28%, Londra lo 0,31%, l'America è lievemente positiva, più 0,20% per lo Standard & Poor's 500 e più 0,31% per il Dow Jones. Per quanto riguarda Milano, abbiamo in cima all'Isino Unipol che guadagna il 2,5%, Brembo l'1,9%, Italgas l'1,4%, Prismian l'1,4%, CNH l'1,2%, ST Microelectronics l'1,04%, in fondo all'Isino Unipol Sai meno 3,13%, UBI Banca meno 2,38%, Mediaset meno 2,06%, Buzzi Unice meno 1,85%, Fineco Bank che cede l'1,78%, Banca Generali l'1,5%, Telecom Italia l'1,47%, Unicredit l'1,39%, e poi arriveremo appunto anche ai mercati. Iniziamo però, come sempre, dalle notizie in breve di oggi. L'oro, iniziamo dalle materie prime, come sempre oro in calo dello 0,3% a $1,240 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, vediamo se riesco a pescare i dati in tempo reale, altrimenti vi do la tendenza. In questo momento non ce l'ho sotto mano, però ci arriviamo. L'apertura di questa mattina del WTI era più 0,8% a $45,2 al barile, perché tra l'altro abbiamo il presidente americano Donald Trump che preme per il dominio americano sul mercato dell'energia. Ieri ha detto che l'era d'oro dell'America si è aperta, abbiamo risorse energetiche quasi senza limiti nel paese. L'idea è di un ampliamento delle trivellazioni nell'Artico e nell'Atlantico, invertendo il piano quinquennale di Barack Obama, rimuovendo alcuni dei limiti imposti e puntando sullo shale oil. Della firma da parte di Putin del decreto che rinnova le sanzioni contro l'Unione Europea vi abbiamo accennato poco fa e ci arriveremo più avanti. Per quanto riguarda la questione europea, c'è tutta la vicenda dei migranti che continua a tenere banco. Che che non è strettamente economica, ma certo fa parte dei temi di tensione all'interno dell'Unione, con Juncker che dice che parla di sforzi extra per aiutare Italia e Grecia e non bisogna lasciarle da sole. Poi piano piano, con calma, con magari un esperto di dati e di analisi del linguaggio, faremo il conto di tutte le volte che abbiamo sentito in questi anni non lasceremo l'Italia da sola, però con calma, eh. Io ne ho contate 3 solo negli ultimi 2 giorni: Avramopoulos, Juncker, lo stesso Macron che ha detto non lasceremo sola l'Italia, poi però i migranti economici a prenderli non ci pensiamo nemmeno e respingono persone a Ventimiglia. Oggi anche i tedeschi hanno detto non lasceremo l'Italia da sola. 4 solamente in 2 giorni. Intanto, alla riunione informale dei ministri dell'interno europei del prossimo 6-7 luglio a Tallinn, non daremo nessuna risposta, ma ascolteremo dall'Italia quali sono stati i cambiamenti quest'ultima settimana per vedere come affrontare la questione della protezione delle frontiere, dei porti e le relazioni con la Libia, dice il ministro dell'interno estone che ospita l'incontro. I dati alla Gran Bretagna, dove l'indice di fiducia dei consumatori britannici è sceso giù a giugno a meno 10 dal meno 5 di maggio, secondo l'indagine GfK, è il livello più basso dal luglio del 2016. È il primo sondaggio completo dopo il referendum sulla Brexit. La pressione di inflazione in crescita e lenta crescita dei salari stanno contraendo i budget delle famiglie, spiega chi ha realizzato la ricerca. Mentre i dati sull'inflazione nell'eurozona parlano di una continua discesa. A giugno, secondo la stima flash di Eurostat, il tasso annuale si attesterà all'1,3%, in calo rispetto all'1,4 di maggio e all'1,9 di aprile. Venendo alle questioni più puramente italiane, innanzitutto il collocamento di questa mattina. Il Tesoro ha collocato 3,847 miliardi di BTP decennale a scadenza agosto 2027 con cedola al 2,05% e un rendimento al 2,16%, in rialzo di appena un centesimo sull'asta precedente. E poi abbiamo i dati dell'Istat su redditi e consumi. Nel primo trimestre del 2017 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,5% rispetto al trimestre precedente, i consumi sono cresciuti dell'1,3%, cresce il potere d'acquisto delle famiglie un più 0,8% ed è un rimbalzo dopo il calo del trimestre precedente, nel primo trimestre del 2017 rispetto dunque all'ultimo trimestre del 2016. E poi la pressione fiscale, che nel primo trimestre del 2017 è stata pari al 38,9% e, guarda un po', in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che vi ricordo vanno in onda anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Aumenta il potere d'acquisto delle famiglie che tornano a risparmiare di più senza peraltro penalizzare troppo i consumi, ma gli investimenti restano bassi e la pressione fiscale aumenta. È la solita Italia stop and go, quella che fotografa oggi l'Istat nel cosiddetto conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,5% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,3%. Di conseguenza la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici 2016 è stata pari all'8,5%, in aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è cresciuto dello 0,8%, ma il loro tasso di investimento, ad esempio per le abitazioni e la loro manutenzione, che è l'indicatore utilizzato dall'Istat, sempre nel primo trimestre di quest'anno, è stato pari al 6,1%, sostanzialmente invariato rispetto ai tre mesi precedenti, e di un aumento di un solo 0,1% rispetto al trimestre corrispondente del 2016. Un segnale che, nonostante le cose migliorino, resta ancora poca fiducia nel futuro. Situazione analoga per le società non finanziarie, la cui quota di profitti è rimasta invariata, ma è scesa la loro propensione a investire. Ancora peggio per gli investimenti della pubblica amministrazione. Le uscite in conto capitale sono diminuite dell'1,6% in un anno, in particolare gli investimenti fissi lordi sono calati del 3,8%. Infine, la pressione fiscale è stata pari al 38,9%, segnando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Più tasse, meno investimenti, ancora timori per il futuro. È anche per questo, anche se non solo per questo, che la ripresa non dispiega ancora tutto il suo potenziale, che comunque sarebbe notevole. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, così Alberto Rioli nei 100 secondi. Qualche altro dato, innanzitutto quelli di Unioncamere, 570.000 imprese a guida stranieri, dice Unioncamere, tra gennaio e marzo ha rallentato il passo ma continua a mostrare una vitalità accentuata. La componente straniera della nostra imprenditoria, alla fine di marzo di quest'anno le aziende a guida straniera erano 575.000, pari al 9,5% dell'intero stock di imprese iscritte ai registri delle Camere di Commercio italiane. Tra i paesi di provenienza degli imprenditori immigrati, con riferimento alle sole imprese individuali, quello più rappresentato è il Marocco, con 68.000 imprese, sugli altri gradini del podio la Cina e la Romania. Da segnalare che lunedì chiude Equitalia, al suo posto nasce l'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate Riscossione. Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio cambia il logo, ci sarà la nuova modulistica e viene rinnovato anche il portale internet. Purtroppo però le tasse le dovete pagare lo stesso. Vedremo se ci sarà qualche vera innovazione anche proprio sulla riscossione, perché qua... E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia il DDL concorrenza. Mi sono dimenticato di dirvelo, ma ormai lo sapete. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta video. Chissà se Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che è in studio con me, lo sapeva. Ciao Maurizio, no, eccoci, anzi, qua, eccoci qua. Puoi fare, ciao con la manina se vuoi, eccoci qua. Allora, parliamo del DDL concorrenza, ieri approvato dall'Aula della Camera con 218 sì, 124 no e 36 astenuti. È stato modificato in commissione a Montecitorio, quindi le speranze del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda di non vederlo tornare al Senato sono fallite, sono svanite miseramente, con le modifiche che sono arrivate appunto alla Camera. Ci sono tutta una serie di elementi, c'è la fine del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas fissata per il 1 luglio 2019, Ci sono degli sconti e inizierei da qua con te, Maurizio, per quanto riguarda le assicurazioni auto. Poi verremo alle altre assicurazioni, perché quello è un tema già qualche ascoltatore molto polemicamente e non a torto, a dire il vero, ci dice: ma che è un DDL concorrenza questo per le norme che ci sono inserite? Però iniziamo dalle assicurazioni auto, Maurizio. Sì, ma allora, per le assicurazioni auto per fortuna non è cambiato granché nell'ultimo, o meglio, per fortuna o per disgrazia, poi dipende dai punti di vista, però diciamo per noi che le seguiamo almeno è un qualcosa di semplice. Questi sconti, allora, questi sconti sono previsti, saranno previsti fondamentalmente per chi accetterà di far montare sul proprio veicolo la scatola nera, e anche per chi accetterà l'eventuale invito dell'assicurazione a far ispezionare il veicolo prima di assicurarlo, quindi per vedere per esempio se ci sono dei danni precedenti, in modo da evitare frodi successive, in buona sostanza. La novità, allora, sono anni che sentite parlare di queste cose, la novità qual è? È che i precedenti tentativi di introdurre questi sconti sono naufragati, perché dapprima perché si tendeva a fissare una percentuale in maniera rigida. Poi da una percentuale rigida siamo passati alla previsione di significative, tra virgolette, riduzioni di prezzo. Adesso invece è stato messo su tutto un sistema piuttosto complesso che deriva da elaborazioni statistiche che saranno affidate all'Istituto di Vigilanza del Settore, quindi l'IVAS. Allora, in base a queste poi saranno previsti, appunto, ci si dovrà orientare per concedere questi sconti. La cosa non è molto semplice, e tra l'altro non è molto semplice perché l'obbligo di installare la scatola nera per ottenere questi determinati sconti diciamo lascia un po' perplessi i tecnici, nel senso che queste scatole nere, di cui peraltro, appunto, per facilitarne l'adozione è stata sempre nel DDL concorrenza rafforzata la valenza probatoria a processo, quindi il giudice dovrà tenere debito conto le risultanze scatola nera, in qualche modo ledendo anche il principio del libero convincimento del giudice, però la cosa fondamentale tecnica è che ci sono casi dimostrati in passato di cattivo funzionamento della scatola nera. Allora, è vero che la norma, adesso il DDL concorrenza prevede una clausola di salvaguardia, cioè dice che si può sempre dimostrare che la scatola nera non ha funzionato, però non è proprio così semplice, e tra l'altro, voglio dire, potrà essere necessario anche rivolgersi a periti, spendere soldi, insomma non è una cosa in sostanza così immediata come potrebbe apparire. Non è immediata, e soprattutto la scatola nera dovrebbe far risparmiare, ma poi per qualcuno almeno potrà comportare costi poi in sede di giudizio, tant'è che l'ordine degli attuari ha fatto un comunicato che non parlava specificamente della scatola nera, però dice: attenzione ai costi che questo DDL concorrenza potrà, costi aggiuntivi che potrà comportare. Mamma mia quanto è faticoso questo paese. Allora, adesso andremo alle altre assicurazioni, parleremo anche delle altre assicurazioni. Sì, voglio rassicurare Domenico da Udine, che prima ho detto si cambia il nome, Equitalia, però le tasse le dovrete pagare lo stesso, voglio rassicurarlo, le pago anch'io le tasse, era un dovrete generico, sono un lavoratore dipendente, sono qua dentro Radio 24, ho l'azienda, il Sole 24 Ore, che mi fa da sostituto imposta, quindi me le paga lui, per tutto il resto faccio una dichiarazione dei redditi, come tutti quanti naturalmente. Allora ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, andiamo a sentire il meteo, poi ci ritroviamo, parliamo delle altre assicurazioni. E poi cerchiamo di sciogliere questo nodo, perché anche là le cose sono sempre complicate, e spesso sono complicate quando si vuole mettere qualcosa sotto il tappeto. Della vicenda Flixbus, che è questa compagnia tedesca che, come tutti ormai ben sapete, offre dei viaggi low cost in pullman, su come andrà a finire non è per nulla chiaro, perché c'è una norma nel milleproroghe, non ci sono stati interventi nel DDL concorrenza, e come andrà a finire chissà. Focus Economia. È Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è sempre la pagina Facebook di Radio 24, dalla quale stiamo anche andando in diretta video, e se volete potete anche commentare, dire la vostra là. Allora, eravamo rimasti sulle assicurazioni, il tema delle assicurazioni nel DDL concorrenza. Abbiamo parlato delle assicurazioni auto, abbiamo anche capito, grazie a Maurizio Caprino, e come sempre in questo paese le cose non sono così semplici, facili e immediate, perché l'idea sarebbe: se monti la scatola nera ti faccio uno sconto sull'assicurazione, poi però chissà che succede, perché anche gli stessi strumenti, le scatole nere non sono affidabilissimi. Comunque questo è la questione del tacito rinnovo dell'assicurazione, non assicurazione auto, perché per l'assicurazione auto il tacito rinnovo, ricordiamolo Maurizio, non c'è. Dal 2012. Ok. Per quanto riguarda le altre? Allora, per quanto riguarda le altre, l'unica novità che è rimasta nel DDL concorrenza è l'estensione del divieto del tacito rinnovo a quelle garanzie che accompagnano la RC auto. Cioè, voglio dire, io faccio la RC auto, poi molto spesso ci aggiungo la furto incendio, molto meno spesso gli infortuni conducente, oppure grandine, quelle cose lì, la casco, eccetera eccetera. Allora, tutte quelle garanzie che accompagnano l'RC auto e vengono stipulate insieme alla RC auto, quelle allora neanche quelle avranno il tacito rinnovo. Quindi è questa l'unica novità del DDL concorrenza. Si è rischiato che ci fosse un'ulteriore novità, che però è stata tolta dalla Camera, ossia il divieto di tacito rinnovo per tutti i rami danni, che non sarebbe stata un grandissimo affare per i consumatori, come invece qualcuno nei giorni scorsi cercava di far credere, perché fondamentalmente il tacito rinnovo che cos'è? Ha un ruolo favorevole al consumatore nel momento in cui evita che la polizza, dovendosi rinnovare ogni anno, venga cambiata nelle sue condizioni. Facciamo per esempio il caso di una polizza sulla salute. Se io ogni anno devo dichiarare il mio stato di salute e magari nell'ultimo anno ho avuto una malattia, l'assicurazione ovviamente vede che io ho preso quella malattia e magari sulla parte del mio corpo che è stata colpita da questa malattia non mi assicurerà più, oppure vorrà avere mi chiederà un premio più alto. Quindi questo tacito rinnovo, in realtà, questo divieto esteso di tacito rinnovo che era stato introdotto al Senato, è stato secondo me anche giustamente accantonato dalla Camera. Quello che invece si sarebbe dovuto fare per introdurre davvero concorrenza o comunque condizioni favorevoli al consumatore sarebbe stata l'abolizione dei contratti assicurativi pluriennali, che quelli sì sono effettivamente un capestro, ma quello non è stato fatto. Quindi ristabiliamo un pochettino l'ordine su una materia che aveva creato tantissime polemiche, anche abbastanza infondate, negli ultimi giorni. L'ultima domanda che ti voglio fare, l'ultima questione che voglio affrontare, è questa vicenda di Flixbus, che è diventata in qualche misura una vicenda simbolica, sì, perché è la rappresentazione di un attore che entra sul mercato con dei prezzi molto bassi e quindi fa concorrenza davvero, e teoricamente costringe gli operatori già presenti sul mercato ad adeguarsi, un po' come è avvenuto con Ryanair nei cieli, per farla molto semplice, per rimanere nel tema del trasporto. Che cosa è successo da questo punto di vista? Insomma, nel milleproroghe è stata inserita una norma che crea parecchie difficoltà a Flixbus. Sì, no? Crea parecchie difficoltà perché impone a Flixbus di diventare operatore in proprio. Cioè, noi abbiamo ovviamente l'immagine di Flixbus come operatore in proprio, perché la livrea dei bus è tutta uguale, però in realtà quelli sono tutti bus che appartengono a imprese tradizionali che hanno i loro bus e, adeguandosi agli standard di Flixbus, li mettono la livrea e vendono i biglietti tutti secondo gli standard Flixbus, quindi un po' come fanno gli NCC con Uber, in sostanza. Sì, in buona sostanza è questo, esattamente. Il milleproroghe vorrebbe che Flixbus si dotasse di propri mezzi. Flixbus non vuole farlo, anche perché come policy europea non lo fa da nessuna parte. Adesso cosa succede? Succede che il DDL concorrenza non affronta direttamente il problema, ma rende possibile una specie di scappatoia, nel senso che rende possibile esercitare l'attività di trasporto con bus anche con autobus, con mezzi a noleggio, che è un'innovazione abbastanza positiva. Vedremo come le cose si evolveranno in futuro, però attenzione, perché anche qui non si può parlare in maniera netta di conservazione e innovazione, nel senso che molte delle imprese che noi definiremmo conservatrici, quindi attori che c'erano già prima sul mercato, sono affiliati a Flixbus. La verità è che Flixbus ha mosso un po' le cose. Quello che noi utenti dovrebbe stare più a cuore, onestamente, è la sicurezza. Allora, sì, da questo punto di vista, io mi preoccuperei di più di come vengono trattati i lavoratori. Per vedere questo bisogna guardare la reazione dei sindacati. I sindacati non hanno aperto bocca sulla vicenda Flixbus contro imprese tra virgolette tradizionali, segno che temono abusi sui lavoratori sia dall'una sia dall'altra parte, quindi è lì che bisognerebbe intervenire, stavolta con una vigilanza da parte degli organi di Stato, anche su strada, ma noi sappiamo che gli organi di polizia a loro volta sono sempre più ridotti. E attenzione che il DDL concorrenza poi prevede anche la riforma futura del famoso, tu lo evocavi, il famoso problema taxi NCC, delega il governo a una riforma, i criteri di delega sono piuttosto vaghi, fumosi, eccetera eccetera. Esiste una bozza che è stata anticipata dal governo alle parti ormai 2 mesi fa, una bozza che insomma dice è un po' una bozza di compromesso, ma vedremo appunto adesso se verrà portata avanti con forza, dipende lì dalla forza politica del governo. Sì, e poi dipende dal fatto che tra poco si andrà a votare, appunto, che in questo paese si vota ogni anno, che poi se non ci sono le politiche ci sono le amministrative, sappiamo benissimo come funziona. Quindi i tassisti, lo dico ai tanti tassisti poi che ci ascoltano, sono una forza elettorale notevole, su questo non c'è niente da dire. Grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e poi veniamo ai mercati che chiudono in negativo. Meno 0,6% il FTSE MIB, meno 0,6% anche il FTSE All Share, con l'America che continua ad essere positiva e negative le altre borse europee. Traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Oh sì, poi nel DDL concorrenza ci sono altri elementi, tra cui il fatto che il rapporto tra notai e popolazione nazionale passa da un notaio ogni 7.000 a un notaio ogni 5.000 abitanti. Grande passo avanti. Mentre nelle società tra avvocati, come già si diceva, viene regolato il ruolo dei soci di solo capitale. Per l'iscrizione all'albo i soci professionisti devono rappresentare almeno 2/3 del capitale sociale, cioè almeno 2/3 del capitale sociale devono essere messi da avvocati. Per farvi un esempio, se c'è un grande fondo investimento che vuole mettere un 49% in uno studio di avvocati per farlo crescere anche finanziariamente, economicamente, non lo può fare. Ciao. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Ciao Andrea. Ciao Simone, buona giornata. Allora, giornata negativa in borsa oggi, no? Sì, stanno continuando quelle che sono un po' le incertezze che hanno caratterizzato la settimana. Un'incertezza innanzitutto che si chiama inflazione dai due lati dell'Atlantico. Oggi sono arrivati i dati sia dell'Eurozona, 1,3% a giugno, quindi in calo, sia i dati degli Stati Uniti con il deflattore dei consumi che ha indicato come sia ancora lontana l'inflazione dagli obiettivi della BCE, e quindi di conseguenza incertezza su quello che faranno le banche centrali. Resta poi il punto interrogativo di cosa sta facendo il mercato sui tecnologici, perché è vero che oggi il Nasdaq non ha perso quello che aveva perso ieri, ma comunque è una giornata piatta che conferma un momento in cui di debolezza generale di questo settore, e questo ha portato le borse a chiudere sui minimi di giornata, a perdere oltre mezzo punto percentuale per quanto riguarda tutti i principali listini. Appunto, questo per quanto riguarda il quadro generale. Tra l'altro c'è, no, il vostro sondaggio, il sondaggio di Radio Core, il quale indica che c'è meno ottimismo tra gli operatori rispetto a quanto c'era nel sondaggio di maggio sui prossimi sei mesi, un'incertezza politica in Italia ma anche negli Stati Uniti, appunto l'inflazione debole. Per quanto riguarda i singoli titoli, inizierei da Unipol più 2,6%. Sicuramente Unipol è stata la protagonista della giornata, perché questa mattina ha presentato un piano di riassetto, soprattutto per quanto riguarda le sue attività bancarie. Ha annunciato la creazione di una bad bank, dove Unipol Banca trasferirà circa 3 miliardi di sofferenze, e ha annunciato degli altri riassetti con il trasferimento di alcune attività assicurative a Unipol SAI. Come ha risposto il mercato? Bene per quanto riguarda Unipol, perché è un processo di riassetto che il mercato ritiene possa portare poi probabilmente alla vendita o comunque alla riorganizzazione dell'intera attività bancaria di Unipol Banca, quindi il titolo ha guadagnato il 2,7%, è stato penalizzato invece Unipol SAI meno 3,6%, un po' perché gli investitori si sono spostati probabilmente su Unipol vedendo più potenzialità rispetto a Unipol SAI, un po' perché a Unipol SAI il polo assicurativo vengono trasferiti delle attività che peseranno un pochettino sui coefficienti di solvibilità, per cui il titolo è stato penalizzato. Bene, anche Italgas, qua abbiamo un report positivo di Citigroup, indiscrezioni per la gara a cui sta partecipando, e poi i petroliferi, Andrea. Una seduta a due volti, diciamo, dei petroliferi. In generale oggi il petrolio ha continuato il suo recupero, sta guadagnando l'1%, è tornato in area $45.5 al barile, se pensiamo il 21 giugno, quindi una settimana fa, una decina di giorni fa, era sotto i $43 a barile, quindi ha recuperato significativamente circa il 5%. Non ne hanno beneficiato però i principali titoli, anche perché alcune case di investimento stanno un po' rivedendo al ribasso quelle che sono le proiezioni delle quotazioni del petrolio per il 2017 e per il 2018, tant'è che Eni ha perso oltre l'1%, ha perso lo 0,5%. Ha guadagnato invece Tenaris più 0,9%, sono attesi come tutti i venerdì i dati degli Stati Uniti sull'attività di perforazione e quindi poi di estrazione negli Stati Uniti, e di solito questo dato nelle ultime settimane ha riservato sorprese positive, e Tenaris, che è impegnata in prima fila nell'attività di perforazione e estrazione, di solito ne beneficia. Per questo il mercato, aspettando questo dato, gli ha fatto guadagnare quasi l'1%. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore. Grazie nella fattispecie ad Andrea Fontana. Altri titoli in negativo: Unipol SAI meno 3,6%, UbiBanca meno 2,6%, Banca Generali meno 2,3%, FinecoBank meno 1,9%, Snam meno 1,8%, giù anche Buzzi Unice meno 1,6%, Mediaset meno 1,5%, Generali meno 1,4%, Unicredit meno 1,3%, Azimut meno 1,2%. In cima alla listina abbiamo detto di Unipol più 2,6%, ma bene anche Brembo più 1,9%, Prismian più 1,26%, Italgas l'abbiamo detto più 1,24%, CNH più 1,07%, Moncler più 1,03%, Tenaris più 0,89% alla fine, e Recordati più 0,71%, Settimo Electronics più 0,64%. E adesso parliamo di innovazione. Cosa cosa che in realtà dovremmo fare sempre, perché è il tema che va a permeare tutta l'economia, quantomeno di questo decennio, e in parte anche del precedente. Oggi e domani a Saint Vincent c'è l'Open Innovation Summit 2017 organizzato da Digital Magics in collaborazione col gruppo 24 Ore, è il quarto degli 8 appuntamenti del network Join, Gasperini Italian Open Innovation. Siamo in linea con Marco Gai, che è il vicepresidente esecutivo di Digital Magics, che è un incubatore di startup innovative. Gai, buongiorno, anzi buonasera e bentornato ai nostri microfoni. Buonasera. Allora, il tema qua è l'open innovation. Mi corregga se sbaglio, è quest'idea ormai in voga, è nata insomma dalla concezione di un economista una decina di anni fa, secondo la quale le aziende non sono più in grado, anche per la scarsa durata del prodotto, di fare ricerca e innovazione solamente in casa. Molto banalmente costa troppo e c'è un mondo troppo aperto e troppo pieno di idee per escluderlo da quella che è l'innovazione interna aziendale, e dunque bisogna procedere, per così dire, per linee esterne, ma non in senso di acquisizione, ma di acquisizione di innovazione di tecnologia. Aziende tradizionali o grandi aziende che si rivolgono a startup, a università, centri di ricerca e via dicendo. Ho riassunto decentemente la cosa? Ha riassunto molto bene la posizione, la visione sull'open innovation, in un momento in cui appare sempre più chiaro il fatto che l'innovazione, soprattutto per prodotti come quelli italiani, dove il Made in Italy, il bello mi ha fatto, la fa da padrone, per andare nel futuro serve innovazione. Piccole e medie imprese, ma anche grandi, molto spesso non hanno né i tempi né le risorse per potersi focalizzare, e quindi cosa c'è di migliore che lavorare con startup che nascono con l'obiettivo di innovare o di inventare qualche nuovo prodotto o servizio, dove anche la visione del digitale diventa un fattore abilitante del successo di prodotti e del successo di aziende che così possono rinnovarsi e innovarsi a seconda delle esigenze del mercato con maggiore rapidità. Quindi l'ecosistema finalmente inizia ad avere una consistenza, e il fatto di lavorare insieme, di fare sistema, sta diventando non la solita parola di cui si parla, ma un'opportunità da cogliere, e in tanti stanno iniziando a coglierla. Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare, andiamo a sentire GR24 con le notizie, poi ci ritroviamo con lei, perché in realtà qua su questo tema parleremo di che cosa rappresenta questo incontro, però vorrei anche porle una domanda, perché qua si confrontano due visioni, perché per esempio ci sono grandi aziende di successo come la Apple che scelgono un modello di innovazione sostanzialmente chiuso rispetto a un modello di innovazione aperto. Mi interessa capire come vede quest'altra visione, visione di aziende come Apple che appunto sono di grandissimo successo. Una pausa, il GR, ci ritroviamo subito dopo. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano, dal 9 luglio, tutte le domeniche alle 19.10 su Radio 24. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a quest'ultima parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. La pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video è la pagina Facebook di Radio 24, andiamo in diretta video anche dal sito di Radio 24, praticamente ci trovate dappertutto. Dunque, stavamo parlando di innovazione e della differenza che c'è nelle scelte aziendali che si possono fare tra l'open innovation, ossia con una contaminazione dall'esterno molto forte, e un'innovazione, modelli di innovazione più chiusi. Io portavo l'esempio della Apple, azienda di grandissimo successo che ha praticato un modello di innovazione essenzialmente chiuso. Mi ricorda Luca, scrivendo via SMS, che, e questo è vero, che Apple ha preso anche molto dall'esterno, anche da centri di ricerca di Stato. Su questo poi si sono innestate mille polemiche su quanto Apple sia veramente un'azienda innovativa oppure no, tutte riportate in un libro molto polemico di un'economista italiana che insegna in Gran Bretagna, la Mazzuccato. Ed eravamo in linea con Marco Gai. Eccoci di nuovo, Gai. Eccoci. Allora, ci racconti innanzitutto, in questo incontro che farete a Saint Vincent, che obiettivi avete fondamentalmente? Di cosa? Di mettere insieme tutti gli attori della cosiddetta Open Innovation e cercare di stilare o addirittura dettare un'agenda? Sicuramente questo incontro di Saint Vincent, l'Open Innovation Summit, nasce in un ciclo di eventi che noi facciamo sull'Open Innovation in giro per l'Italia durante tutto l'anno. Questo però è il momento in cui tutti gli attori dell'ecosistema italiano, quindi incubatori, istituzioni, enti di ricerca, università, siamo riusciti a coinvolgerli per fare un po' il punto della situazione, dove siamo, ma soprattutto dove vorremmo e come vorremmo che ci fosse l'evoluzione, quindi la visione su come stanno andando gli investimenti, anche grazie alla spinta di Industria 4.0, ma anche e soprattutto il fatto che oggi l'innovazione e l'innovazione digitale diventano poi un volano per la crescita, e così guardare al futuro parlando di policy più che di politiche momentanee, ed è quello che sta emergendo anche dal dibattito di oggi pomeriggio, cioè policy in cui si favorisca la contaminazione e l'aggregazione e l'interconnessione tra l'azienda tradizionale e la startup, proprio in questa nuova idea di azienda a 360 gradi, che poi è lo stimolo per portare il made in Italy nel digitale, o meglio, per utilizzare il digitale per far crescere ancora di più il made in Italy, con innovazione aperta che poi può portare anche a corporate ventures, quindi acquisizioni, ma può anche portare alla crescita scalabile delle start-up che trovano un partner ideale verso l'azienda manifatturiera che già hanno, come volano per crescere ancora più velocemente. E su questo mi ricollego proprio a Apple, chiedo scusa, prego. Perché sono d'accordo con l'ascoltatore che ha detto che Apple ha comprato tanto anche all'esterno, oltre ai centri di ricerca. Io ricordo anche che Siri è frutto di un'acquisizione esterna, quindi la ricerca sicuramente è stata fatta in maniera di Open Innovation, in maniera di Open Innovation. Poi la politica dell'azienda è quello di determinare sistemi chiusi per la vendita sul mercato, ma questa poi è strategia aziendale. Diversa e successiva, cioè l'innovazione la cerca comunque fuori, non tutta naturalmente, ma in parte la cerca fuori, e poi l'azienda come strategia aziendale decide di portarsela dentro. L'ultima domanda che le voglio fare riguarda che margini ci sono per tutto questo nel nostro paese. Nei giorni scorsi se ne è parlato molto, soprattutto sui social network, e sempre un po' col solito tono lamentoso. Guardate cosa fa Macron, che vuole mettere 10 miliardi di euro per le start-up. Vabbè, innanzitutto vediamo se li metterà. In secondo luogo vediamo come verranno spesi, perché i soldi pubblici ne possiamo mettere quanti ce ne pare, bisogna vedere poi come vengono spesi. Quello che voglio capire da lei è se c'è un ambiente in questo momento in Italia che è migliore rispetto a quello che poteva essere, per esempio, 5 anni fa, per un tipo di innovazione di questo tipo. Certo, c'è Industria 4.0, ma Industria 4.0, come diceva lei, si deve anche appoggiare, no, su un ambiente complessivo anche di start-up, di capacità innovative di piccole aziende, che appunto deve essere il supporto a tutto questo. L'ambiente com'è al momento? Io credo che l'ambiente sia notevolmente cambiato rispetto al passato, nell'ottica di essere più consapevole. Questa consapevolezza è in maniera molto pratica e anche dettata dal fatto che il mondo si sta muovendo in questa quarta rivoluzione industriale velocissimo, e quindi insomma, ce ne siamo un po' resi conto anche perché abbiamo visto gli altri accelerare in maniera importantissima. Dopodiché non sarei ipocrita dicessi che se in Italia dicessero di mettere 10 miliardi sull'innovazione non sarebbe una cosa eccezionale. Saremmo tutti super contenti, ma la verità è che io credo che in questo momento soprattutto ci vada un vero e forte partenariato pubblico-privato. Il pubblico deve essere abilitatore e incentivatore dell'innovazione e poi il privato deve fare la sua strada per essere solido in questo approccio. Dopodiché le grandi innovazioni in giro per il mondo, in giro per l'Europa, sono sempre state favorite anche da un grande apporto del pubblico, ma questo non toglie che ci sia una grande eccellenza privata in Italia che ha bisogno solo di, come posso dire, autostrade a quattro corsie, quindi infrastrutture materiali e immateriali nella fattispecie dell'innovazione digitale per poter andare veramente alla velocità che merita e soprattutto prendere la leadership che merita, perché le nostre start-up come le nostre aziende quando escono dai confini vanno mediamente più veloci delle altre. Quindi vuol dire che se noi abilitiamo, anche grazie a politiche pubbliche, l'interno, possiamo andare veramente veloce come sistema paese. Grazie, grazie a Marco Gai per essere stato con noi, vicepresidente esecutivo di Digital Magics, che è un incubatore di startup innovative che ci ha presentato l'Open Innovation Summit in corso di svolgimento a Saint Vincent ad Aosta. Traffico e poi parliamo di conti pubblici in parte. In realtà parliamo di questa ipotesi del governo di taglio del costo del lavoro per i giovani e quindi conseguentemente parliamo anche di dove si trovano i soldi. A tra un attimo. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Focus Economia. Dobbiamo insistere mettendo i giovani anche al centro dei possibili interventi di riduzione del carico fiscale sul lavoro. È un impegno per i prossimi mesi che in questa occasione mi sento di prendere di fronte a voi. Ed ecco qua, il Presidente del Consiglio che rilancia l'impegno del Governo per una riduzione del cuneo fiscale per i neoassunti con contratto stabile under 35, platea potenziale 300.000 giovani, ipotesi di abbattimento del 50% dei contributi. Dino Pedola del Sole 24 Ore, ciao Dino, buonasera. Ciao Simone, buonasera. Allora, si lavora, come si dice, appunto, un abbattimento del 50% dei contributi a carico delle aziende per tre anni, dall'attuale 30-33 al 15%, ipotizzando un tetto di 3.000 euro per gli sgravi a favore dei datori di lavoro. Il provvedimento avrebbe un costo iniziale di 900 milioni di 1,5 miliardi, tra il 1,5 miliardi e 2,5 miliardi. Una volta a regime e come sappiamo i cordoni della borsa non sono larghissimi. Dino, che cosa stanno pensando a Palazzo Chigi per finanziare questa misura? Sì, questa è l'ipotesi che gira un po' da qualche settimana. È allo studio di Palazzo Chigi, se ne sta occupando in particolare Marco Leonardi, che è il consigliere economico di Palazzo Chigi, e sta proprio lavorando e simulando l'intervento che dovrebbe essere così articolato, come tu hai sintetizzato, nella prossima manovra di bilancio. Accanto a questo c'è un lavoro parallelo che il Ministero dell'Economia sta conducendo per provare a capire se si può incrementare la dote, chiamiamola così, e a disposizione della prossima manovra e soprattutto dove andare a recuperare le risorse, con una differenza che le opzioni allo studio del Ministero dell'Economia puntano a un intervento che sia strutturale, il più possibile strutturale, mentre questo allo studio avrebbe un carattere temporaneo, cioè sarebbe triennale. Allora, le ipotesi allo studio sostanzialmente prevedono di renderlo strutturale, di ampliare la platea, pur considerando che comunque i soggetti interessati dovrebbero essere sempre giovani, come ha annunciato il Presidente del Consiglio Gentiloni, quindi fino ai 35 anni, e una delle fonti possibili di finanziamento, possibili dico perché su questo la trattativa politica è ancora alle prime battute, Potrebbe essere quella di estendere l'obbligo della fatturazione elettronica, che adesso è relativo solo alle transazioni che intercorrono tra privati e amministrazioni pubbliche, anche a quelle tra privati. È una partita complicata perché bisogna spuntare il via libera di Bruxelles, perché come sappiamo l'IVA è un'imposta tra virgolette europea a tutti gli effetti, e tuttavia dalle simulazioni dei tecnici dell'economia potrebbe essere possibile recuperare anche 4-5 miliardi dal versante dell'evasione IVA, che ricordo è enorme, perché gli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate parlano di oltre 40 miliardi di evasione, tutti concentrati sull'IVA. Quindi questa potrebbe essere una fonte di finanziamento, ammesso che ci sia un via libera politico da qua a metà ottobre. È interessante, Dino, e mi chiedo una cosa, e giro la domanda a te, come mai non ci abbiano pensato prima a fare questa operazione, appunto per il recupero dell'evasione IVA? Beh, da tempo che se ne discute, ci sono degli studi del MENS, se ne è occupato l'ex ministro Vincenzo Visco, che ha prodotto studi e simulazioni per provare a recuperare evasione dal fronte dell'IVA. Il problema è che non è facilissimo, perché le trattative sono complesse e soprattutto non è detto che Bruxelles poi ci dia il via libera. In più c'è una variabile politica non secondaria, perché se queste risorse effettivamente si liberassero, e guarda caso la prossima manovra di bilancio cade in piena campagna elettorale. Qui c'è una preoccupazione di carattere politico che ha in particolare il ministro Padoan, il ministro dell'economia. Cioè, se in qualche modo si ha la percezione che c'è, non vorrei chiamarlo tesoretto perché è una parola abusata e non molto fortunata, ma che c'è una riserva, chiamiamola così, di risorse da utilizzare, la tentazione di utilizzarla per altri fini che siano magari più accattivanti dal punto di vista del consenso elettorale, cioè, e quindi molta prudenza, prudenza. Immagino bene, tra l'altro presumibilmente, ora senza dire che questo sia giusto o meno giusto, tra l'altro non farebbe un'operazione di questo genere, non farebbe contenta la platea degli evasori, che comunque sono voti, cioè lo dico, non dico che sia positivo, dico semplicemente che è un dato di fatto, e quindi magari il ministro Padoan non la vede così, ma magari qualche politico potrebbe vederla in questo modo anche, Dino. Certo, c'è il problema del consenso che ovviamente ispira ogni azione politica, non solo in Italia. Il problema è che da noi si concentra in questa stagione autunnale, che è già complicata di per sé, perché noi, lo ricordo, dovremo spuntare, perché abbiamo chiesto nuova flessibilità, ma ancora non ci è stata concessa, nuova flessibilità a Bruxelles sul fronte del deficit, e poi dovremo provare a fare una revisione della spesa finalmente più coraggiosa. Ricordo che nel documento di economia e finanza di aprile i maggiori incassi dalla cosiddetta spending review sono cifrati in 1 miliardo, un po' pochino, quindi forse si potrebbe provare ad alzare l'asticella. Anche qui però sappiamo che l'azione sulla spesa è un'operazione politica a tutto tondo, e quindi bisogna avere il coraggio di farla. Normalmente un'azione incisiva di razionalizzazione e riqualificazione della spesa si fa a inizio legislatura, non alla fine. Certo. Da questo punto di vista è lecito nutrire qualche dubbio sul fatto che si riesca a portarla a casa, perché costa in termini di consenso. Io ti ringrazio, grazie a Dino Pesore del Sole 24 Ore, rassicurando almeno parzialmente ascoltatori e ascoltatrici che ci scrivono, come credo l'ascoltatrice, a giudicare dalla foto su WhatsApp, forse un ascoltatore che dice ma pure tra privati vogliono le fatture elettroniche, e su una fattura di 200 euro 7,7 euro e mezzo per le spese di una fattura. Io immagino che se fanno un provvedimento di questo genere pensino anche a questo. Comunque sta anche a voi professionisti, a voi che avete la partita IVA, farvi valere da questo punto di vista, ammesso che ci riusciate, perché poi non sempre è facile, e lo so benissimo. Chiudiamo qua il capitolo per il momento della politica economica italiana. L'ultima parte di Focus Economia in pochi minuti la dedichiamo alle controsanzioni russe approvate oggi. Questo perché Putin in risposta alla proroga delle sanzioni economiche contro la Russia, prorogate fino al 31 gennaio del 2018, ha firmato il decreto di proroga delle controsanzioni ai danni dell'Unione Europea. Antonella Scott del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. Il che rappresenta un problema, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato spesso da questi microfoni, per le imprese italiane. Da agosto 2014 la Russia ha imposto un embargo su 51 prodotti provenienti da paesi che hanno imposto sanzioni contro Mosca: carne, pesce, salumi, frutti di mare, ortaggi, frutta, prodotti caseari. L'embargo, esatto. Embargo prolungato, si parla di mancate esportazioni per 4 miliardi di euro finora per le aziende italiane, no Antonella? Sì, è così, anche se per quello che riguarda invece tutti gli altri comparti che non sono i prodotti non sanzionati, diciamo per esempio l'olio, la pasta, vino, cioè, ci sono tante cose che invece non sono colpite da questo embargo russo, e qui invece si cominciava a vedere un barlume di ripresa, l'export stava riprendendo, quindi alla fine poi tutto il comparto agroalimentare in realtà è in ripresa, aiutato un po' dalla ripresa dell'economia russa, quindi che sta uscendo dalla recessione. Purtroppo, appunto, come abbiamo visto, così come in automatico, in assenza di passi avanti, di progressi nel Donbass, la crisi nell'est dell'Ucraina, così come l'Unione Europea rinnova praticamente automaticamente il regime delle sanzioni, ovviamente la Mosca risponde a tono, e quindi risponde prolungando questo embargo per loro è la scadenza è un anno, quindi è più di un anno, quindi fino alla fine del 2018, ovviamente pronti a ritornare sui propri passi se dovessero esserci decisioni ovviamente speculari dall'altra parte. Certo. Il problema è che non si vedono grosse speranze di uno sblocco, grossi spiragli, come ricordavi giustamente tu, ci sono stati il problema di queste sanzioni, di queste controsanzioni, e dall'altra parte anche la crisi economica che ha colpito la Russia, esatto. Perché anche questo ha avuto un impatto sulle esportazioni italiane verso la Russia, e su questo non c'è dubbio. Abbiamo pochi secondi, Antonella, su questa questione delle sanzioni. L'Italia ha espresso una posizione distonica rispetto a quella dell'Unione Europea. Questo non ci avvantaggia in alcun modo? No, direi di no, perché comunque i nostri prodotti, anzi appunto i paesi che sono i più per cui è più importante, sono più importanti queste voci che citavi, appunto la frutta, la verdura sono al centro del nostro export, e quindi questo per noi non è che per noi fanno delle eccezioni, ecco, questo no. Quello che i russi sottolineano è, visto che noi dobbiamo imparare da soli a fare cose che non possiamo più importare dall'Italia, quindi per esempio l'esempio classico è il formaggio, quello che loro dicono è: venite ad aiutarci a imparare a fare noi la mozzarella così come la fate in Italia. Quindi diciamo una possibilità per girare attorno alle sanzioni e cercare di non farsi danneggiare completamente potrebbe essere questa, anche se certamente per un produttore italiano non è la stessa cosa esportare e invece andare, un impegno ben più pesante, andare a spostare la produzione là, o comunque aiutare a fare qualche forma di collaborazione con i russi. Io ti ringrazio, grazie ad Antonella Scott del Sole 24 Ore per questo aggiornamento, grazie anche ad Andrea Roccabella in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto, una buona serata e un buon fine settimana da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.